Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro particolare. Il titolo è Il tempo del leone, ma non è un libro che parla di animali. Il leone è l'immagine di una compagnia, di una delle più grandi società italiane, le assicurazioni generali. Ne parliamo con Simone Bemporad. Buonasera, Simone Bemporad. Buonasera. Direttore comunicazione e relazioni istituzionali del gruppo Generali, che ha realizzato questo libro, un libro che parla di una storia secolare, una storia di quasi 180 anni, forse per preparare i festeggiamenti per i 200 anni. Allora entriamo nel vivo di questo libro. Di che cosa si tratta, Simone Bemporad? Beh, abbiamo pensato che fosse doveroso riprendere in mano la storia delle Generali, che è una storia importante, nasce nel 1831, non è solo la storia di una società che fa assicurazioni, per quanto importante, ma è una storia che si intreccia con la storia dell'Europa, si intreccia con la storia dei moti del 48, si intreccia con la storia della Prima Guerra Mondiale e così via. E quindi, diciamo, è chiaro che c'è dell'attualità, al di là ovviamente del centenario della Prima Guerra Mondiale, ma c'è proprio un'attualità con i temi oggi delle difficoltà che sta attraversando l'Europa. E l'archivio storico delle Generali, che è alla base ovviamente di questo lavoro, e le analisi che abbiamo fatto, lavori che erano stati fatti prima, ci hanno dato la possibilità di ripercorrere la storia di questo grande gruppo, che è una storia fatta anche di momenti difficili, certo, momenti molto belli, aneddoti, e anche abbiamo dato una veste grafica nuova, attingendo moltissimo anche al patrimonio fotografico del gruppo. Ecco, quindi è una storia delle Generali, ma è anche una storia della realtà italiana ed europea, per non dire mondiale, perché a fianco delle pagine che raccontano la vita appunto della società ci sono tutta una serie di cronologie molto documentate su quello che è avvenuto, sullo scenario in cui questa storia si è inserita. Ed è un libro, poi torneremo a parlare dei contenuti, anche diverso come viene presentato, perché è un libro multimediale, non è solo un libro tradizionale di carta, bella carta patinata ai colori, ma è anche un libro che viene presentato in altre versioni. Simone Bemporad. Sì, è un libro che è disponibile anche in formato digitale, lo è sia in italiano che in inglese, ed è consultabile, scaricabile gratuitamente nel formato ebook, che è quello ovviamente più comune, più utilizzato, sia da Apple Store, da Google Play e dal nostro sito generali.com, che peraltro ha anche una sezione dedicata proprio alle storie delle Generali, con dei video, con animazioni che sono ovviamente tratti dal libro che abbiamo appena pubblicato. Ecco, questo libro ha anche una prefazione di Paolo Rumiz, che appunto è uno storico che interviene e dimostra in fondo come in questa descrizione, nella descrizione di questo libro, ci siano anche i caratteri di una società italiana che è cambiata anche il modo di essere impresa, il modo di vivere l'impresa. Per esempio è molto interessante vedere come veniva concepita la gerarchia all'interno dell'impresa, anche che è una cosa ancora importante, che però in altri tempi aveva anche una sua espressione, per esempio nel modo di vestire. Quindi è un libro che raccoglie anche tutte le realtà particolari di una storia che è la storia poi di tutti noi, e quindi ognuno in fondo si può riconoscere. Sì, perché all'inizio, dobbiamo ricordarlo, le assicurazioni generali nascono da un gruppo di illuminati economisti e persone veramente illuminate che hanno deciso di creare una società che potesse favorire quella che era la crescita economica. Ricordiamoci che Trieste in quell'epoca è il porto dell'impero austro-ungarico, è quindi un centro nevralgico dell'economia di quella parte di mondo, però è anche, c'è un grande senso patriottico già all'epoca ovviamente di questi italiani che creano le Generali, e infatti il primo ufficio all'estero, aperte e chiuse virgolette, che viene creato dalle Generali è a Venezia. E questa è una storia di persone, e all'inizio le Generali è un'azienda che valorizza proprio le persone, le figure degli attuari. Gli attuari sono quelli che si mettono nel difficile campo delle previsioni per cercare di capire cosa bisogna fare per proteggere proteggere un commercio, per proteggere un bene, ed è veramente quindi fin dall'inizio un business fatto da alcune persone molto specifiche per persone molto specifiche. Ecco, però è un'azienda che è anche una public company, una delle poche public company italiane, qualcosa che rappresenta in fondo un punto di riferimento anche per la realtà italiana all'estero, come hai detto appunto poco fa, un punto di riferimento che ha anche degli obiettivi appunto di portare in avanti questa realtà e questa immagine dell'Italia. In fondo nel Leone di San Marco, nel Leone, nei tempi del Leone, c'è un'immagine di un'Italia che percorre i mari, che percorre appunto con grande capacità anche le novità appunto che si presentano all'interno della realtà, e di novità soprattutto negli ultimi anni ne abbiamo moltissime, però resta comunque una storia di uomini. E quello che volevo citare è come Paolo Rumiz, in fondo al suo intervento, alla sua descrizione, appunto pone una lettera del 1916 in cui un capo ufficio chiede alla direzione generale che si fornisca un cappotto a un usciere, perché è molto zelante, puntuale, rispettoso, disciplinato e devo aggiungere anche intelligente, e quindi sotto tutti i rapporti ha dato ampia soddisfazione, ma comincia a patire il freddo per la mancanza di un soprabito d'inverno. Quindi c'è anche molta umanità in questi racconti. Voglio citare anche un altro episodio che magari è meno personale, però fa capire il significato del lavoro svolto dalle generali. Il grande incendio che nel dicembre del 36 distrusse il Teatro della Fenice di Venezia, quindi stiamo parlando ancora un'epoca in cui Venezia faceva parte evidentemente degli interessi di generali da subito, perché l'ufficio di Venezia apre proprio nel 35. Ecco, la Fenice era assicurata dalle generali che attraverso il pagamento di un claim di 240.000 all'epoca lire austriache consentì immediatamente la ricostruzione del teatro, che venne inaugurato appena un anno dopo, nel dicembre del 1837. Ecco, quindi un'attenzione appunto anche alla realtà storiche, culturali, locali, e quindi una capacità anche di portare una testimonianza. Ecco, una testimonianza di grande attualità. Voi avete presentato questo libro anche agli studenti. Perché proprio agli studenti? Beh, quella è stata un'iniziativa che è nata insieme alla Triennale di Milano, in particolare alla presidente dell'Associazione Amici della Triennale, Elena Tettamanti, perché noi ovviamente avevamo l'intenzione di presentare questo libro, lo abbiamo fatto e faremo altre iniziative a Trieste, a Roma e anche all'estero, perché ricordiamoci che Generali è un'azienda molto presente in Francia, in Germania, nell'est Europa. Lo abbiamo fatto insieme agli studenti perché l'Associazione Amici della Triennale cercava dei sostenitori, e come Generali abbiamo pensato che anziché limitarci a versare un contributo, come spesso si fa peraltro, certo, da un punto di vista di mecenatismo, abbiamo deciso di donare delle tessere per visitare la Triennale, per essere parte del network della Triennale, a studenti di università e scuole milanesi. È stato lanciato questo, che non è un concorso, semplicemente una iniziativa di sottoscrivere queste tessere, ne abbiamo rese disponibili 500 e ci sono state più di 5.000 richieste, e quindi abbiamo invitato insomma un successo che ci fa veramente piacere, soprattutto perché riguarda gli studenti. Abbiamo invitato gli studenti che hanno ottenuto le tessere a essere i nostri primi spettatori, quindi abbiamo fatto una cosa per loro. Ecco, quindi è una iniziativa a favore sia degli studenti, sia della triennale, sia appunto di quello che la triennale rappresenta, cioè il fatto di portare alla ribalta quello di bello, cioè nella realtà italiana, e il bello è una delle caratteristiche competitive che l'Italia può avere, una caratteristica competitiva che è anche quella del far bene il proprio mestiere. Forse il senso di questa storia, di questi primi 200 anni, anche se devono ancora compiersi dei generali, è forse la dimostrazione che far bene il proprio mestiere è il filo conduttore, che vuol dire anche appunto la capacità di essere al passo coi tempi, ma di prendere appunto in fondo, come sempre attuali, quei valori magari di sobrietà che hanno contraddistinto il passato, in cui anche i dirigenti andavano a piedi in ufficio, quei valori di sensibilità che ci sono e che sono valori perenni. E proprio forse questa è la volontà di tramandare una storia che è una storia fatta di grandi temi finanziari, ma anche di una profonda seconda umanità di fondo. Voglio aggiungere su questo una cosa. Nella prefazione bellissima che Paolo Rumiz ha scritto per noi, che tu prima citavi, viene raccontata una storia straordinaria anche dal punto di vista dell'attualità, di questo impiegato delle generali che si chiama Edmondo Richetti. Lui è una persona che ha una torre d'osservazione molto molto importante, perché tranne la riunione adriatica di Sicurtà, all'epoca non esisteva né in Austria né in Italia nessun istituto assicurativo delle dimensioni internazionali di generali, sto parlando del 1912-1913, mentre l'Europa ancora non capiva che si sarebbe scatenato un enorme conflitto e c'erano, diciamo, il clima era sostanzialmente che il conflitto non sarebbe stato possibile perché avrebbe gettato nella bancarotta sia gli stati vincitori che gli stati vinti. Lui scrive, Edmondo Richetti, un documento per il vertice della compagnia in cui, aperte virgolette, lui dice: se non nascerà l'Europa unita, per 420 milioni di europei sarà il disastro sotto forma di guerra, rivoluzione o anarchia. E lui correda questo suo ragionamento in questa lettera da tabelle e uscirà come manifesto a Vienna nel maggio del 14, cioè a soli 2 mesi dall'inizio della Grande Guerra. E questo, come dicevi te, ovviamente è la qualità delle persone, l'umanità delle persone, lavorano per generali. Sono colpito, io personalmente rimasto colpito dall'incredibile attualità di questo documento, non che ovviamente, grazie a Dio, oggi l'Europa sia nelle condizioni in cui era nel 14, però il tema dell'Europa unita oggi, quello sì, è senz'altro molto attuale. Ecco, proprio per, è una ottima conclusione questa, per dire appunto che la storia è sempre maestra di vita, la storia è sempre qualcosa che ci insegna, dobbiamo andare a rileggersi le nostre vicende, forse per capire meglio quello che stiamo vivendo e per preparare meglio anche il nostro futuro. Grazie Simone Bemporad di essere stato con noi questa sera. Grazie davvero a voi. Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Gruppo Generali, e abbiamo parlato del libro Il Tempo del Leone, un libro che, come abbiamo detto, è disponibile, si può richiedere ai generali, ma si può anche scaricare su internet dal sito delle stesse generali. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato, come tutti gli altri programmi di Radio 24, dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.